GR24, il sole 24 ore. Incontro Fini-Berlusconi sulla giustizia. Il presidente della Camera dice no alla prescrizione breve verso una legge sui tempi del processo. Industria, produzione infrenata, a settembre si stoppa la ripresa. A Ischia si scava e si cerca in mare dopo la frana che ha travolto decine di persone, morta una ragazza di 15 anni. A 20 anni dalla Convenzione ONU sui diritti dei bambini, un'iniziativa dell'UNICEF con Clio Napolitano che oggi compie gli anni. Una buona giornata da Alessio Maurizi e dalla redazione. Benvenuti a questa edizione di GR24. È questo il giorno del chiarimento politico tra il capo del governo Berlusconi e il presidente della Camera Gianfranco Fini, un incontro sul tema della giustizia e anche su altri argomenti, ne parleremo tra pochissimo. Prima andiamo con la cronaca, andiamo ad Ischia dove, come sapete, una grossa frana si è staccata da un costone di montagna nei pressi del porto di Casamicciola, travolgendo diverse persone. C'è una ragazza che è morta, ma ci sono anche alcuni feriti. Andiamo con tutti gli aggiornamenti. Enzo Danna. Sì, allora buongiorno. Cominciamo subito col dire che è stata identificata la vittima della frana, la quindicenne Anna De Felice, che si trovava con i genitori nell'auto che è stata trascinata in mare dalla frana. Al momento proseguono le ricerche in mare per verificare se vi siano persone disperse. Sono una decina le persone invece ricoverate all'ospedale Rizzoli di Ischia. Più serie le condizioni di una donna che è stata trasportata con un'eliambulanza a Napoli. Un bambino di 6 anni che risultava disperso è stato fortunatamente invece ritrovato in buone condizioni. Il fiume di acqua, fango e massi caduto dalla montagna che sovrasta Casamicciola ha trascinato persone, alberi e decine di automobili, alcune delle quali sono state schiacciate, altre sono finite in mare. A provocare la frana di questa mattina le forti piogge che in questi giorni stanno interessando l'intera regione. Al comune di Casamicciola poco fa si è svolto un vertice cui hanno preso parte il sindaco, il prefetto, i rappresentanti delle forze dell'ordine e della protezione civile per fare il punto, ed è stata istituita una unità di crisi per fronteggiare l'emergenza. Intanto i vigili del fuoco si sono recati sulla montagna per verificare se vi siano pericoli incombenti di nuove frane. Va detto che non è la prima volta che a Ischia si verificano smottamenti del genere. 3 anni fa, lo ricordiamo, una frana costò la vita a 4 persone, Luigi Buono e le sue 3 figlie morirono nel crollo della loro villetta travolta dalla colata di fango. Per il momento è tutto, da Napoli vi restituisco la linea. Grazie allora Enzo Danna, e torneremo a sentirti più avanti nel corso di questa giornata per vedere come vanno avanti le operazioni di soccorso dopo la frana avvenuta questa mattina ad Ischia. Adesso, come detto, l'ampia pagina politica, 2 ore di faccia a faccia, tesi tra Fini e Berlusconi per parlare di giustizia e stabilire l'agenda del governo sulla riforma dei processi. Alla fine del colloquio una breve battuta di Berlusconi ai giornalisti è andata bene, ma c'è anche un'intervista del presidente della Camera Fini a Sky. Andiamo con ordine, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, lo si attendeva con molto interesse a causa dei recenti dissapori. Il faccia a faccia di questa mattina invece tra Berlusconi e Fini sembra aver ricreato una certa sintonia tra i due leader del Popolo della Libertà. Il premier si è limitato a dire l'incontro è andato bene, a parlare più a lungo è stato invece il presidente della Camera, che si è concesso alle telecamere di Sky. Sul capitolo giustizia Fini ha annunciato che nei prossimi giorni sarà presentato un disegno di legge parlamentare per garantire tempi brevi per i processi, 6 anni per i 3 gradi del giudizio, ma unicamente per gli incensurati. Con Berlusconi, ha spiegato però Fini, abbiamo escluso l'ipotesi della prescrizione breve, ma sentiamo Fini. I 6 anni sono l'arco di tempo temporale massimo per la celebrazione dei processi, ovviamente con le risorse finanziarie e solo a beneficio degli incensurati. Quella che impropriamente è stata chiamata la prescrizione breve, cioè una sorta di prescrizione dei reati più che dei processi, è stata dal presidente Berlusconi e da me considerata ipotesi non praticabile, proprio perché danneggerebbe i cittadini. Altro capitolo, quello delle regionali, ne abbiamo parlato rapidamente, ha detto Fini, ci è sembrato opportuno, ha aggiunto, rinviare il tema dell'incontro con Bossi. Il Presidente della Camera ha aperto poi ad un incarico per D'Alema in Europa, in tema di riforme ha annunciato sì all'elezione diretta del Premier, sull'immunità parlamentare se ne discuta, ha concluso Fini. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E il Presidente della Camera Fini ha parlato anche del caso di Nicola Cosentino, sottosegretario all'economia, di cui si era parlato anche come di possibile candidato del PDL alle regionali in Campania, su cui indaga la Procura di Napoli. Allora, sulla vicenda Cosentino, gli aggiornamenti con Andrea Viali. Sì, Alessio, Fini ha fatto sapere che è arrivata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera la richiesta di arresto nei confronti di Nicola Cosentino, che richiesta presentata dalla Procura di Napoli. Il sottosegretario, lo ricordiamo, è accusato di aver avuto dei rapporti con il clan camorristico dei Casalesi nell'ambito di un'inchiesta che riguarda lo smaltimento illecito dei rifiuti. Sull'arresto la Giunta deciderà nei prossimi giorni. Fini ha sottolineato che nei confronti di Cosentino deve valere la presunzione di innocenza, ma il Presidente della Camera ha spiegato anche che a questo punto una sua candidatura alla guida della Regione Campania non rientra più tra le cose possibili. Nel PDL oggi sono comunque in molti a difendere Cosentino, che per Capezzone, portavoce proprio del PDL, è vittima di un vergognoso pestaggio mediatico. Nei suoi confronti accuse incredibili e inconsistenti, sostiene invece Ghedini, secondo il quale le indagini su Cosentino puntano solo ad indebolire la sua candidatura, candidatura che però dopo lo stop di Fini appare a questo punto tramontata. Grazie Andrea Viali anche per questi aggiornamenti. E la Giunta per le autorizzazioni a procedere dovrà prendere quindi presto una decisione su Cosentino, ma come funziona e quali sono stati i pronunciamenti più eclatanti, più famosi della Giunta per le autorizzazioni a procedere? Sentiamo. La Giunta per le autorizzazioni a procedere è composta da 21 deputati nominati dal Presidente della Camera. A presiederla in questo momento c'è Pierluigi Castagnetti del PD. Dopo la riforma dell'articolo 68 della Costituzione approvata nel 1993 in piena Mani Pulite, la magistratura non deve più chiedere l'autorizzazione della Camera prima di svolgere indagini su un deputato, ma solo nel caso in cui debba procedere al suo arresto o ad altre limitazioni della libertà personale, quali perquisizioni e intercettazioni. In questi casi la Giunta valuta le richieste del magistrato e entro 30 giorni riferisce all'Assemblea. Tra i casi più celebri si ricorda l'autorizzazione a procedere negata nei confronti di Bettino Craxi il 29 aprile 1993, il giorno dell'ormai famoso lancio di monetine all'uscita dell'Hotel Raphael. Due mesi dopo la Giunta concesse invece l'autorizzazione a procedere chiesta dalla Procura di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti. E nel 1998 fu negato l'arresto per Cesare Previti. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E proprio oggi un rapporto di Cittadinanza Attiva sul tema della giustizia. Cittadini che attendono oltre 30 anni per una sentenza definitiva, legali che non spiegano le scelte ai propri assistiti, giudici che non vengono spesso sostituiti. Questa è la fotografia non proprio edificante presentata oggi a Roma, appunto, la Cittadinanza Attiva. Sentiamo Teresa Petrangolini, segretario generale di Cittadinanza Attiva, al microfono di Alessandra Schepisi. Uno dei principali problemi è il rapporto con i professionisti e con gli avvocati, che è un rapporto in crisi perché molti dei cittadini denunciano questa difficoltà e questa mancanza di fiducia. I tempi, cioè per una successione non puoi aspettare 25 anni, è una cosa scandalosa. I costi, perché il gratuito patrocinio, che sarebbe un diritto del cittadino, riguarda solo il 7% delle persone che si sono rivolte a noi, gli altri devono sborsare denaro per farsi giustizia. I conflitti inutili, cioè delle volte noi, soprattutto nei conflitti tra i privati, che sono il 50%, sarebbe molto più utile non andare in giudizio, invece gli avvocati, gli amici, tutti ti consigliano di andare dall'avvocato. I magistrati cambiano continuamente, per cui tu devi ricominciare da capo, perché il magistrato dopo non si è letto le carte e non ne sa niente. Quindi sono tanti problemi molto quotidiani, molto materiali, di cui sinceramente l'agenda della politica proprio non si occupa. Ecco, la politica si sta occupando di altre cose, per esempio la prescrizione breve. Questo potrebbe avvantaggiare i cittadini? Riguardo a questo non avvantaggia proprio, perché ci sono molti processi che appunto poi ci mettono tantissimo per essere celebrati. Se c'è anche la prescrizione breve, il cittadino che ha avuto magari un figlio che è morto sotto i ferri in ospedale e deve andare in giudizio, si vedrà quel reato prescritto, e questo non è giustizia. E questa era l'intervista a Teresa Petrangolini, segretario di Cittadinanza Attiva della nostra Alessandra Schepisi, sulla giustizia in Italia. E sempre al tema della giustizia era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Sentiamo quali sono state le vostre risposte sulle iniziative del governo. La riforma della giustizia è il tema che tiene banco nell'agenda politica. C'è chi la vede, i berlusconiani, come la garanzia per la governabilità del paese, e chi dall'opposizione denuncia il tentativo di creare uno scudo processuale a Silvio Berlusconi. Ma è davvero necessaria una riforma che il centrodestra vuole su questo tema? Lo abbiamo chiesto oggi a voi ascoltatori nel nostro sondaggio. Hanno prevalso i no con il 58%. Ha le idee chiare il procuratore di Palermo Antonio Ingroia, al centro di polemiche in questi giorni per alcune dichiarazioni considerate dalla maggioranza antigovernative. L'Italia ha bisogno di una riforma della giustizia. Il punto è: quale riforma della giustizia? Allora, noi avremo bisogno di una riforma della giustizia, che è l'unica che non si è fatta e non si vuole fare, pare, negli ultimi anni, e cioè quello di accorciare i tempi, non della prescrizione ma dei processi. Se invece di accorciare i tempi della giustizia si accorciano i tempi della prescrizione, si va verso la giustizia negata, non la giustizia realizzata. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. È una canzone, l'ultima testimonianza di Alda Merini, scomparsa la scorsa settimana, un brano scritto con un suo carissimo amico. Si erano conosciuti 15 anni fa Alda Merini e Giovanni Nuti. Lui era depresso dopo un insuccesso da dimenticare e aveva ritrovato la luce grazie a una poesia scoperta per caso. Aveva voluto conoscere Alda, da lì un gioco poetico e musicale. Mi dettava per telefono i versi e poi io andavo al pianoforte e poi mi diceva: ma sai che quando ero in manicomio sentivo proprio quella musica. Il mio letto è una zattera che corre verso il divino. L'ultima canzone si intitola Una piccola ape furibonda. Si sapeva della malattia, però l'avevamo rimossa. Le nostre canzoni, quelle allegre, ci divertivamo a ballarle sempre, però era già il momento in cui faceva più fatica. E avevamo pensato di fare un gioco prendendo gli aforismi, e io ho detto: Alda, la intitoliamo Una piccola ape furibonda che sei tu. Poi mi sono chiesto: è giusto o non è giusto che la faccia uscire? Tutti mi hanno detto era quello che lei voleva. Illumino sempre gli altri, ma io rimango sempre al buio. Sono una piccola ape. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Perché dopo la ripresa di agosto, che aveva visto la produzione industriale risalire su base mensile del 5,8%, a settembre torna il segno negativo con un calo del 5,3% questa volta rispetto al mese precedente. La flessione è la più elevata dal 1990. L'analisi è di Fabio Pammolli, direttore del CERM, intervistato da Valeria De Rosa. Una buona parte della crescita della produzione industriale registrata ad agosto era probabilmente ascrivibile a un processo di ricostituzione delle scorte più che a un vero ripartire della domanda, cioè a dire le imprese, dopo aver eroso gli stock e le scorte nei mesi precedenti, hanno approfittato del periodo precedente a settembre per ricomporre quegli stock, e questo ha determinato un incremento della produzione. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Dobbiamo aspettarci una situazione che rimarrà difficile, una situazione all'interno della quale è bene non avere salti, umorali in positivo o in negativo, perché la volatilità complessiva rimane elevata e devo dire che non bisogna assolutamente cedere nell'autocompiacimento di fronte a dati aggregati che ci vedono, come dire, andare meno peggio di paesi come il Regno Unito proprio in termini di volatilità dell'economia, perché le tensioni sull'occupazione rimarranno molto forti nei prossimi mesi. A questo punto potrebbero in qualche modo incidere anche misure fiscali a favore della domanda interna, diciamo così, one shot, come ad esempio la detassazione della tredicesima? Le rispondo con una provocazione: a me pare che sarebbe più utile una misura che finalmente completi il processo di liberalizzazione sui tempi di apertura dei saldi natalizi. E ora parliamo di trasporti, perché in Piemonte si apre per la prima volta la possibilità che ad offrire servizi di treni sia non Trenitalia ma altri operatori europei. Sentiamo. Pronti, via. Da ieri la Regione Piemonte ha pubblicato il bando di gara europeo per affidare 3 lotti del trasporto ferroviario regionale a 3 nuovi operatori. In pratica, al più tardi nel 2013, uno o più vettori diversi da Trenitalia potrebbero servire 3 importanti aree subalpine. Il nord-est Piemonte con Biella, Novara, Vercelli e il VCO, il sud-est con Asti, Alessandria e i collegamenti per Genova, ma soprattutto la Torino-Milano, che tra l'altro è una tratta redditiva. L'affidamento con gara, in teoria obbligatorio secondo le norme europee, è già stato adottato in Emilia, ma lì ha vinto un consorzio regionale a cui partecipa anche Trenitalia. Di fatto invece il Piemonte, con un bando suddiviso in lotti, ha scelto la via di una gara totalmente aperta, per cui già a settembre il Sole 24 Ore Nord-Ovest aveva individuato i possibili soggetti interessati, tra gli italiani i privati di Arena Ways e le ex municipalizzate GTT e Ferrovie Nord, tra gli stranieri le ferrovie tedesche e francesi, ma anche i privati transalpini Transdev e Keolis. Per Trenitalia si vedrà, finora si era detta non interessata, ma non sono esclusi cambi di strategia. L'assessore piemontese ai trasporti Borioli non nasconde che proprio i contrasti con Trenitalia su qualità e costi del servizio per i pendolari abbiano pesato, ma dice non troppo. La regione infatti è dal 2007-2008 che prepara un bando di gara aperto. Quanto ai vantaggi per i cittadini, Borioli ne indica almeno 2. Il primo è che noi collegheremo i capitolati a delle precise definizioni di qualità dei servizi. La seconda questione è tutti i treni, come è prescritto nei bandi che abbiamo varato ieri, dovranno essere nuovi. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e GlaxoSmithKline hanno firmato oggi a Ginevra un accordo sulla donazione da parte della ditta farmaceutica di 50 milioni di dosi di vaccino contro l'influenza A per immunizzare le popolazioni dei paesi più poveri. E allora, per quanto ci riguarda, facciamo il punto anche oggi con un esperto intervenuto a Essere e Benessere, con Nicoletta Carbone. Questa volta a parlare è Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Sentiamo i suoi consigli. Oggi, se noi guardiamo, come dire, le rassegne che noi medici facciamo, cosa vediamo? Che laddove ci sia l'influenza, nei paesi in cui c'è l'influenza, o c'è la suina o non c'è nient'altro. Per cui, mal di gola, febbre alta, dolori addosso, ho preso la suina. Quindi, dottor Cricelli, la corsa a acquistare nelle farmacie il test rapido per dare un nome e un cognome al virus che ci procura l'influenza, tutto sommato, è una corsa inutile. Diciamo che è una corsa largamente inutile, perché i medici sanno, e lo comunicano, me compreso ora, ai pazienti, che quando uno ha quei famosi sintomi, ormai credo tutti abbiamo imparato a memoria, abbiamo di fronte una influenza. La cura per qualunque tipo di influenza è la solita, eccetto per influenze molto particolari, ma che non esistono in questo momento, ed è sempre la cura sintomatica, stare a letto, prendersi un antipiretico e lasciare che passi. E allora, il consiglio che diamo sorridendo è il seguente: avrebbe detto Catalano, qual è l'unica maniera di non preoccuparsi per l'influenza? E avrebbe risposto, non prenderla. E come si fa a non prenderla, visto che non possiamo chiuderci in una villa toscana come facevano i personaggi del Boccaccio? Beh, vaccinarsi. La vaccinazione naturalmente dell'influenza, ricordiamo, per le persone che rientrano nelle categorie a rischio, mentre sull'influenza stagionale valgono le regole degli anni precedenti, vero? Assolutamente, vaccinarsi non costa nulla, è sicuro, direi che vale la pena di farlo. Pazienti e medici se la devono fare. E questo era il dottor Claudio Cricelli al microfono di Nicoletta Carbone. Cari bambini, se state leggendo questo libro significa che siete fortunati, perché sapete leggere, vuol dire che c'è qualcuno che vi ha insegnato a farlo, che siete potuti andare a scuola. Comincia così l'introduzione che Clio Napolitano, moglie del capo dello Stato, ha firmato per il libro voluto dall'UNICEF per i 20 anni della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e della dell'adolescenza. Scusate. Sentiamo Vincenzo Spadafora, presidente di UNICEF Italia, al microfono di Nicola Accardo. Il governo ha sicuramente la necessità di risolvere alcuni punti che sono rimasti in sospeso ormai da anni. Noi non abbiamo come paese un piano nazionale dell'infanzia che è fermo dal 2004 e che vuol dire soprattutto che mancano risorse, manca un coordinamento tra le varie strutture che in Italia soccorrono l'infanzia. Allo stesso tempo la legge sul garante nazionale dell'infanzia è ancora ferma in Parlamento e soprattutto il nostro paese ormai è sempre di più agli ultimi posti negli aiuti alla cooperazione internazionale. Questo è molto grave perché vuol dire che anche quest'anno che si celebra il 20° anniversario della Convenzione, al di là poi della retorica o di enunciazione di principio, non c'è un comportamento conseguente. Questo noi lo chiederemo anche con forza nella conferenza di Napoli che il governo ha organizzato per i prossimi 18, 19 e 20 novembre, perché credo che vada data appunto una risposta definitiva a questo tipo di questioni. Tra i 10 diritti fondamentali ce n'è uno in Italia che ha più difficoltà a trovare una dovuta applicazione? Sicuramente in questo momento mi viene in mente che il diritto all'integrazione, al rispetto di tutte le culture e le identità trova nel nostro paese una qualche difficoltà per il crescente numero di bambini stranieri che arrivano sul nostro territorio e per l'incapacità che invece abbiamo di accoglierli e di garantire loro quali diritti. E siamo allo sport con il calcio. La nazionale di Lippi inizia oggi a preparare a Roma le amichevoli contro Olanda e Svezia, le prime tappe di avvicinamento ai mondiali di Sudafrica, una chance da non perdere per quelli che sperano in una convocazione. Outsider, fate il vostro gioco. La roulette mondiale inizia a girare sabato con l'amichevole pro terremotati contro l'Olanda e terminerà solo a fine maggio quando Lippi diramerà le convocazioni. 16 dei 23 azzurri hanno già la carta d'imbarco pronta, i portieri Buffon, De Santis e Marchetti, i difensori Cannavaro, Zambrotta, Chiellini, Legro, Taglia e Grosso, i centrocampisti Gattuso, Pirlo, Camoranesi, Marchisio e De Rossi, gli attaccanti Amaurì, Gilardino e Iaquinta. Un mix tra i reduci del gruppo di Berlino ed una spruzzata di novità. 7 posti sul volo per Johannesburg restano liberi. Tra i difensori i favoriti sono il polivalente Criscito, l'affidabile Gamberini e Santon, ma se l'interista non recupera la fiducia di Mourinho, pronto uno tra Cassani e Maggio, entrati oggi nel gruppo azzurro. Più affollata la volata per le ultime due maglie di centrocampo. Il centrale dovrebbe essere uno tra Palombo e D'Agostino, ma una stagione da favola di Aquilani o una conferma ad alto livello di Candreva potrebbero mettere in difficoltà Lippi. Sull'esterno è corsa a due tra Pepe e Marchionni, terzo incomodo il cagliaritano Biondini. In attacco tutto ruota intorno a Francesco Totti. Se il giallorosso decide di tornare, per l'ultima maglia in testa c'è Pazzini. Altrimenti in Sudafrica andrà Giuseppe Rossi con Quagliarella o il Doriano alternative. Senza scordare l'opzione del Piero. Zero chance invece per Cassano, anche se il tormentone continuerà fino a maggio. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.